my man Simon Fellini. What's up my brother? Dope fellas familia. Direttamente dal Vigentino, representing Vigentino, Black Spaghetti. Let these fools know what we're talking about. Niente chiacchiere, we ain't got no time to bleed. We ain't got no time to talk. We ain't talking shit, bro. Di Europa, my brother. Tell him. Ladies and gentlemen, welcome to Black Spaghetti. Dope fellas from Vigentino, Simon Fellini. Mettimi i resti in una pianta, ma di ganja come Betty da Messina. Metto oni mica luni in ciò che scrivo, poi mi uccido la mia scima. Se ciò che fai non ti classifica, allora pure ciò che dici di te non ti identifica. Una perla non è perla senza il guscio. Viso elegante da Osho, mi aspetta sull'uscio. Tallo vero non è mai una questione di giusto, è sempre solo questione di gusto. Non è l'anno della svolta, è il momento di essere svelto. Black Spaghetti è l'antipasto. Sono la chiave di volta per aprirla, fallo prima con te stesso. In sfortuna tocco ferro e lo prendo, prego di FS. Ehi, sono un povero Cristo ma è Nobunaga. Non vivo nel mio mondo, vivo nella mia galassia. Un corpo strano e misterioso come un muamua. Sei una donna per cui uccidere mi salva. Oh mamma mia, se dici non è minaccia, è già una minaccia. Taccio su chi taccia, spregiudicato con chi giudica. Tu sei un minchia, un mannaggia. Solo Dio, vero giudice. Notte buia qua i dog, fanno buia ca buia ca. Tuca tuca Raffaella, la mia Alice degli spiriti. I find my love isola d'Elba. Non punto sulle sponsor, tutti quelli che ascolto sembrano un coito interrotto. Gara chi piscia più lontano e per chi ce l'ha corto. Ho gli occhi addosso, io se posso la svolto. Che dopo il soldo lascio il posto, più fa il grosso più il tonfo sul fondo. Realize, riconosco il realize. Non ne ho bisogno fra bye via che è un via bye. Io non parla lingua in culo, non lo fare mai. Dai dai numeri e ti brucia 451 Fahrenheit. One new, ma c'è cazzo per facer. Veras con te a Simon Fellini che va a spaccupula tutto quanto. Spaghetti.